Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Ucraina, la tregua decisa dalle diplomazie resta sulla carta, si combatte attorno al nodo ferroviario di Debaltseve. I separatisti sostengono di controllare ormai oltre l'80% della città. Kiev, attacco che viola gli accordi di Minsk e chiede una risposta dura dell'Occidente. Centinaia dei circa 5.000 soldati ucraini rimasti si sono già arresi. Il presidente ucraino Poroshenko lancia un avvertimento: è a rischio la pace nel mondo. Oggi noi siamo in un mondo in guerra, dappertutto. Qualcuno mi diceva: ma lei sa, padre, che siamo nella terza guerra mondiale, ma a pezzi. Ha capito lì, no? È un mondo in guerra dove si fanno queste crudeltà. Generale Carlo Jean, esperto di strategia militare. Generale, ha ragione il Papa? Ma guardi, il Papa da un punto di vista statistico non ha ragione. Il numero di conflitti è diminuito notevolmente negli ultimi 30 anni. Era una media di conflitti di major conflicts, come definiti dalla SIPRI di Stoccolma, erano 40-50, adesso sono 20-30. Ma sono più gravi? Ma sono più pubblicizzati dai media. L'attenzione dell'opinione pubblica è molto polarizzata su questi conflitti e i media li amplificano. Senta, ma le armi schierate in Ucraina sono sempre più pesanti o no? Ma guardi, le armi in Ucraina sono in gran parte armi russe, anzi sono per la quasi totalità armi russe, anche l'Ucraina aveva un numero di armi molto rilevante, e poi sicuramente dalla Russia giungono delle armi per i ribelli del Donetsk. Senta, ma generale Jean, secondo lei è una tregua possibile o impossibile da rispettare? Ma a mio avviso, sa, le tregue sono come quelle della Jugoslavia, durante la guerra di Bosnia in particolare. Le tregue sono una specie di tattiche utilizzate per consolidare i propri vantaggi strategici, ecco, e squilibrare l'avversario. Sì, d'accordo, ma è una situazione che la politica controlla o non controlla più? La politica non controlla per un semplice motivo, che ormai le milizie, i ribelli, gli insorti e così via sono abbastanza fuori da ogni controllo. E quindi la situazione militare ha preso il sopravvento? Ma la situazione militare è estremamente confusa, complessa, e nel caso particolare i ribelli vogliono occupare questo centro ferroviario da cui dipende l'arrivo del carbone del Lugansk e quindi, generale, siamo sull'orlo dell'impossibilità a tornare indietro. La sento non particolarmente preoccupata. Guardi, tornare indietro, in realtà il conflitto potrebbe essere congelato. A mio avviso il conflitto può essere congelato anche perché la situazione economica russa sta diventando pesante. La Russia ha bruciato ormai più di un terzo delle sue riserve di valuta pregiata, è passata grosso modo da 600 miliardi di dollari a 400, continua la fuga dei capitali, l'inflazione è molto forte, il blocco delle importazioni di viveri dell'Unione Europea non è solamente dovuto come a ritorsioni rispetto alle sanzioni dell'Unione Europea, ma anche per risparmiare della valuta pregiata, che sta diventando un po' argomento critico. Ecco, ma lei cosa prevede, generale Jean? Il congelamento del conflitto. Ma congelamento cosa significa esattamente? Che praticamente i ribelli consolideranno le loro posizioni in attesa della costituzione nuova ucraina, otterranno una forte autonomia. La Russia insiste perché in questa autonomia ci sia anche un'autonomia della politica estera, in particolare per evitare che l'Ucraina entri a far parte della NATO. Ecco, ma generale Jean, ma il finale sarà più brutto per chi? Per Kiev o per Mosca? Vabbè, è chiaro che sia brutto per Kiev, perché ha perso una parte del territorio nazionale, una parte del territorio nazionale che tra parentesi produceva dal 15% del prodotto interno lordo ucraino. E quindi Putin vincerà alla fine? Putin sta vincendo. facendo. E sicuramente da un punto di vista strategico è molto più abile di noi, decide, e mentre invece noi siamo portati più a chiacchierare che non a decidere. Poi con le chiacchiere a un certo momento si giunge a un appeasement. E gli americani interverranno o no? Anche gli americani, non senza un appoggio unanime forte degli europei, possono fare ben poco. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ecco, Maurizio Molinari, giornalista, autore del libro Il Califfato del Terrore. Tu inizi il tuo libro scrivendo che abbiamo i barbari alle porte di casa, e quindi secondo te stanno veramente arrivando? Sì, sono dei jihadisti ideologicamente convinti del credo nella violenza. Era dal tempo dei nazisti che l'Europa non aveva alle porte nemici di questo tipo. Senti, la bandiera nera dell'ISIS su San Pietro è solo propaganda o veramente c'è un rischio per il Vaticano, Maurizio? C'è un progetto militare e ideologico di conquistare prima tutte le terre dell'Islam e poi di portare la jihad più violenta a Gerusalemme e a Roma, le capitali del cristianesimo e dell'ebraismo. Conquistare l'Islam, però c'è una guerra civile in corso all'interno dell'Islam. Assolutamente sì. La jihad si propone innanzitutto di imporsi come ideologia sui sunniti, poi di sterminare gli sciiti e quindi di trasformare in minoranze protette tutti gli altri, che siano cristiani, ebrei, buddisti, atei o indù. Ce n'è del lavoro da fare allora ancora? Sì, è un'ideologia totalizzante, per questo evoca i totalitarismi del secolo passato, solo che in questo caso, a differenza del nazismo e del bolscevismo, la base è la fede. Senti, Maurizio Molinari, che leader è al-Baghdadi rispetto a Bin Laden? Un leader più colto, più attento al consenso popolare e più appassionato alla buona amministrazione. Ecco, i combattenti dello Stato Islamico sono anche cittadini europei sempre di più. Perché, secondo te? Perché lui riesce, Baghdadi, parlando la lingua del Corano in maniera dotta e forbita, come Bin Laden non sapeva, ad accattivarsi le simpatie degli immigrati di seconda e terza generazione, quelli che sono nati e cresciuti nei nostri paesi e hanno bisogno di nuove idee. Lui gliele dà. Ecco, il fatto anche di avere delle televisioni islamiche, come l'Arabia e Al Jazeera, che si rivolgono alle minoranze, ai gruppi islamici in Occidente, sicuramente un moltiplicatore di consenso questo. Non c'è nessun dubbio che al-Baghdadi, a differenza di Bin Laden, sa gestire la comunicazione in maniera molto sofisticata, molto hollywoodiana anche. Ha scoperto, come dire, ha tecnici e strategie narrative che sono simili a quelle quasi dei telefilm. Assolutamente, perché lui è convinto che in questa maniera può reclutare. Essendo un'ideologia, si basa sul contagio di persone che non conosce direttamente, e per farlo il vettore sono le nuove comunicazioni, i nuovi media. Ecco, Maurizio Molinari, tu dici che il ruolo delle famiglie è molto importante in questa lotta al terrorismo. In che modo? Perché il primo argine, i primi ad accorgersi che c'è un jihadista in circolazione sono i familiari, il padre, la madre, i fratelli. E quindi sono loro i primi che possono tentare di convincerlo a ripensarci, a rifiutare questa ideologia. Ecco, le caratteristiche fondamentali dell'ISIS rispetto a Bin Laden, per esempio, è che l'ISIS ha uno Stato. Ecco, questo Stato come è organizzato? È organizzato su due tronconi, uno religioso e l'altro amministrativo. Quello amministrativo dà buoni servizi, distribuisce il pane, l'elettricità, l'acqua molto spesso gratis, addirittura ha tribunali per raccogliere le lamentele sulla qualità dei cibi quando sono scarsi. E poi c'è l'imposizione della religione, ovvero della visione più estremista e intollerante della Sharia islamica. Le due cose vanno di pari passo, ovvero bisogna rispettare la Sharia ma anche godere dei frutti della buona amministrazione. È una ricetta del consenso. Ecco, Maurizio Molinari, ma chi finanzia il califfato? All'inizio, secondo i documenti dell'amministrazione Obama, sono stati dei singoli che soprattutto dal Qatar e dal Kuwait e forse anche dall'Arabia Saudita hanno fatto arrivare degli stanziamenti, ma poi oggi la vera novità è che il califfato è capace di autofinanziarsi, questo grazie allo sfruttamento dei pozzi di petrolio in Iraq e in Siria che controlla, all'imposizione di dazi e tariffe grazie alle quali ha denaro liquido con il quale paga gli stipendi da 200 a $600 al mese. Ecco, quindi tu dici, Maurizio, che il califfo, oltre che con il terrore, consolida il consenso con la buona amministrazione? Assolutamente sì, per questo è un avversario temibile, per questo ha un'idea di Stato molto più sofisticata e raffinata di quella di Bin Laden. Bin Laden pensava solamente ad attaccare il nemico a distanza, Baghdadi vuole costruire un suo Stato. Ma di quanti uomini è composto l'esercito dello Stato Islamico? Le stime americane e europee più credibili parlano di 30.000 uomini armati che controllano un'estensione di territorio di 250.000 chilometri quadrati, cioè più della Gran Bretagna, popolati da circa 12 milioni di anime. Ecco, ma pagano i loro combattenti? Che stipendi hanno questi combattenti? Hanno stipendi fra i 200 e i 600 dollari al mese a seconda del grado, ma ciò che più dà fastidio alle popolazioni di Iraq o di Mosul, che a guadagnare gli stipendi più alti e ad avere il maggior tipo di privilegi, sono i combattenti stranieri, cioè quelli che vengono dall'Europa. Ecco, quelli che vengono dall'Europa non vengono solo dalle seconde e terze generazioni islamiche, ma anche da europei. Secondo te c'è in questa attrattiva, oltre alla capacità di comunicare, come dicevi, anche la crisi dei valori della sinistra, cioè il sogno, la possibilità di avere un sogno malato, ma un sogno? C'è un virus in Europa. Aksa Mahmood è una ragazza di 20 anni, nata a Glasgow, cittadina britannica, orgogliosamente scozzese, che sceglie improvvisamente di andare a Mosul e a Raqqa a guidare un gruppo di volontarie britanniche che gestiscono i bordelli, cioè le case dove vengono schiavizzate le ragazze yazidi per essere offerte in pasto agli uomini della jihad. Tutto questo è la genesi di un virus. Ecco, ma i figli del benessere perché sono coinvolti in questa avventura? Perché gli immigrati di seconda e terza generazione sono diventati europei a tutti gli effetti, e come europei hanno bisogno di nuovi sogni. Al Baghdadi gliene dà uno che è il più terribile, quello di odiare il mondo nel quale sono cresciuti. Ecco, Maurizio Molinari, ancora un'ultima domanda. Naturalmente ricordo, giornalista, autore del libro Il Califfato del Terrore. In qualche modo si può dire che è la rivincita delle tribù? Assolutamente sì, perché la base sulla quale al-Baghdadi costruisce il suo consenso sono le tribù, le anime originali della grande Bilad al-Sham, la leggendaria nazione del Levante. Anche Lawrence d'Arabia, quando guidò la rivolta degli arabi contro l'impero ottomano, fece leva sulle tribù. In questo angolo del mondo, chi vuole costruire nuove entità finisce per fare riferimento a clan e tribù. Un'ultimissima cosa a proposito di clan e tribù in Libia. Secondo te qual è la soluzione, diplomatica, politica o militare? Stiamo andando verso una risoluzione ONU che farà nascere una coalizione anti-ISIS fotocopia di quella che si batte in Iraq e in Siria, che consentirà a paesi arabi europei di dare forze dall'aria, probabilmente anche navali, all'Egitto, che probabilmente metterà in campo forze di terra per sostenere il generale libico Haftar. Sì, ma se gli esempi sono quelli che hai fatto tu, il risultato non è stato tanto clamoroso. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. È caduta la linea con Molinari. Ecco, Pietrangelo, quello che stava raccontando Molinari era interessante, secondo me, la parte finale, perché in realtà, se quello è l'esempio, gli esempi sono esempi di fallimenti. Sono tutti esempi di fallimenti. Ancora oggi vengono considerati come punti a favore la caduta di Saddam, la guerra in Afghanistan, sono considerati la caduta di Gheddafi dopo, sono considerati come punti a favore dell'Occidente, che hanno invece creato il caos, il vero caos cui siamo costretti a vivere. Si aggiunge a questo quello che hai sottolineato tu nell'intervista con Maurizio Molinari, e cioè la guerra civile all'interno dell'Islam, che ha scatenato un ulteriore veleno ancora più pericoloso, nel fatto stesso che, per esempio, sono molto di più i musulmani a morire in questa guerra, e che si è avvelenata a tal punto la strategia del terrore nello stabilire un principio di superiorità all'interno della comunità islamica, per cui si procede passo dopo passo, come poi ha detto Molinari, nel creare un'egemonia all'interno del mondo sunnita, nello sterminio degli sciiti e nello stabilire poi delle regole che certamente non appartengono alla struttura di Mohammed e dell'Islam. Mario? Mario, sei ancora al tuo letto di dolore? Come stai? Sì. Stai bene? No, stai meglio? Meglio. Tornerai? Ti rivedremo? Sì. Se mi volete. Noi siamo qui in ansia. In un doloroso esilio. Siamo in ansia. Senti, intanto hai sentito anche tu? Sì, sì, ho sentito. Sono in disaccordo su un paio di cose. Dillo. Allora, la prima è che secondo me, e secondo altri osservatori ben più qualificati di me, che ovviamente io seguo molto tempo, almeno un anno, ISIS non riuscirà a costruire uno Stato, anzi non ci sta in realtà riuscendo. Cioè, quindi diciamo l'analisi di Molinari, che è molto puntuale su un sacco di aspetti, Maurizio è bravo, un collega in gamba, preparatissimo, però sul punto della costruzione di un'entità statuale da parte di ISIS non mi convince. Perché questa poi era la vera novità dell'ISIS, quella della costruzione dello Stato. Giovanni, ricorderai, noi avevamo dato la notizia dell'ISIS che batteva moneta. Certo. No? Sì. E tu devi battere moneta per cominciare ad avere uno Stato. Certo, è un'operazione fallita in partenza. Non solo, ma l'escalation di violenza totale degli ultimi mesi, sempre più grande, ha cominciato a innescare l'illusione proprio tra i mercenari stranieri. Alcuni hanno provato a lasciare ISIS e il risultato è che li hanno fatti secchi o li hanno costretti a restare. Per cui dal punto di vista, diciamo, della costruzione amministrativa, secondo me non ci siamo. Non ci siamo ancora. No, l'altra cosa sulla quale sono in disaccordo invece è con Buttafuoco sull'assimilare l'Iraq. Ne approfitti Libia. Perché sei lontano dallo studio. Sì, se no mi veniva giù chissà che cosa. No, è quella di assimilare l'Iraq alla Libia, o meglio, Saddam a Gheddafi. Sono due storie completamente diverse. Ora può piacere o meno, uno può essere d'accordo o meno, però diciamo la guerra, la campagna irachena nel 2003 nasceva come risposta innanzitutto alle due torri talebani Afghanistan, ma faceva parte di un disegno dell'amministrazione americana di Bush di costruire un avamposto dell'Occidente in Iraq, che era l'unico posto dove tra l'altro si poteva provare questo esperimento. La guerra in sé non è stata condotta male, la guerra in Iraq, la campagna del 2003. Beh, è stata una tragedia, come no, non è stata condotta male? È stata male. Una tragedia il post-guerra, non la guerra. Vabbè. Il problema, l'avamposto l'ha fatto a Mosul adesso ISIS, se quel, giustamente il risultato infatti, voluto dall'Occidente forse. Sì, ma perché si sono ritirate le truppe americane. Avevano fatto un disastro nel dopoguerra, sì, come però, dici tu, avevano fatto un bel disastro. Noi dobbiamo essere precisi su questo. La campagna militare di invasione fu condotta bene. Dopodiché, convinti da consiglieri che avevano sbagliato... Vabbè, insomma, adesso il perché... Loro pensavano di avere un nation building facile, cosa che non è avvenuta. Dopodiché, quando hanno sistemato, perché a un certo punto vi sono stati dei progressi molto grandi, gli Stati Uniti hanno deciso di ritirarsi. Quindi il concetto è semplice, l'uovo è stato rotto, ma la frittata non l'hanno saputa fare. Vogliamo semplificare, sì, hanno rotto l'uovo, l'hanno messo in padella e poi non l'hanno fatta. Voglio solo dire un'altra cosa, su Gheddafi invece sono d'accordissimo con Pietrangelo, con tutte le analisi eccetera, perché era un caso ben diverso. Cioè lì si è deciso appunto di deporre anche in quel caso il dittatore e vabbè, ma poi conducendo tra l'altro neanche una guerra diretta, perché abbiamo fatto bombardamenti aerei, punto, non abbiamo fatto altro. Poi Mario, siamo in chiusura, devo dare la pubblicità, intanto ritorni subito dopo. Mix 24. Abbiamo Flavio da Milano. Flavio, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, hai indovinato? Sì, è una cosa che mi ricordavo fin dai tempi in cui l'ho studiata a memoria. Ah sì? E allora? Non l'ha detto però. No, perché, vabbè, francamente il tempo di mettere giù l'SMS, non ho avuto molto tempo di fare altro. Mi sono ricordato immediatamente le strofe. Sì, ma deve ripetere in diretta. Il titolo. Il titolo. Il titolo è Alla sera di Popolo. Ah, ecco, bene, bravissimo, giusto. Bene. Per già, lei è anche, l'ha anche scritto, ha ragione lei, aveva ragione. Senta, che fa di bello a Milano? Io faccio il promotore finanziario. Ah, e come vanno le cose in questo periodo? Ma c'è un po' diciamo di ripresa? Che... C'è un po' di ripresa o no? Diciamo che si può dire che ci stanno le basi per qualcosa che avverrà, mi auguro, nei prossimi 3-4 anni. Ah, 3-4 anni, quindi sì, ancora tirare la cinghia ancora per 3-4 no, anni? Magari tirare la cinghia no, penso, spero che il peggio sia passato, però come sempre in questi casi ci vuole un po' di tempo poi per rimettersi in carreggiata. Beh, insomma, comunque la sento ottimista, la voce mi sembra abbastanza ottimista. Sì. Bene, bene, allora auguri per la sua promozione finanziaria. E intanto torniamo da Mario con una bolla. Allora, questo è un bellissimo pezzo degli Alan Parsons Project, Eye in the Sky, perché al cielo dobbiamo guardare. E gli Stati Uniti hanno dato il via libera per la prima volta, questa è una cosa importante, alla vendita di droni armati, non di droni senza missili, droni armati, a un certo numero di paesi. E tra questi c'è gli alleati americani nel Golfo, la Turchia e... l'Italia. Avremo i nostri droni armati. Bene. Avremo i nostri droni armati se li compriamo. Ah, io credo che li compreremo. Beh, che sicuramente. Dici, ma io dico che faremo a scambio con il Tornado, no? Con no. No, Salamino. Li compreremo. Salamini in libreria. La destra siamo noi, una controstoria italiana da Scelba a Salvini. Autore Giampaolo Panza, l'editore Rizzoli. Panza, la stragrande maggioranza degli italiani, che non è di sinistra, non è mai riuscita, da Scelba a Salvini, ad avere una rappresentanza politica né tantomeno culturale. Perché? Ma dunque io intanto toglierei di mezzo il povero grande Mario Scelba, perché è stato ministro dell'interno e poi anche presidente del Consiglio all'epoca di De Gasperi, che era un democristiano di ferro, allievo di Don Sturzo. C'era una leggenda, siccome erano entrambi dello stesso paese, Caltagirone, che Scelba fosse addirittura il figlio naturale di Don Sturzo, e la maggioranza allora c'era. Il vero problema che tu poni, che è un problema reale, è successo in seguito. I moderati, pur essendo in grande maggioranza, contati uno per uno, un voto, una testa, un voto, tranne che in qualche fase dei governi Berlusconi non hanno mai avuto la maggioranza per colpa dei loro capi. Questo non c'è. Ciao Giampaolo. Ecco, tu c'è un capitolo che fai su Fanfani nel tuo libro. C'è una continuità tra Fanfani e Renzi? Secondo te il professor Guarino, a cui avevo fatto questa domanda, dice sì, però Fanfani era già in cattedra quando è cominciato e la cosa in comune è il ritratto di La Pira. Uno ci lavorava insieme, l'altro c'è il ritratto nel suo ufficio. Ma c'è qualcos'altro? Ma assolutamente no, caro Giovanni. Fanfani era un gigante rispetto a Renzi. Renzi è un signore, tanto per cominciare, nato l'altro ieri. Non si è mai esposto al giudizio di un'elezione politica. Quelle europee le ha fatte, obiettivamente. Vabbè, quelle europee le ha fatte, ma le europee sono delle elezioni diverse. Certo, però... E soprattutto devo dirti che caratterialmente, pur essendo ambedue toscani, ma di due aree molto diverse, molto lontane dalla Toscana, perché Renzi è un signorino di Firenze, Fanfani era un duro dell'Aretino. Da questo punto di vista non ci vedo assolutamente. E la comunanza con La Pira non può ispirare qualcosa? Ma no, no. La Pira. Posso dire una cosa brutale? Sì, certo. Con tutto il rispetto per La Pira, di sì. La Pira non si ricorda più nessuno. Ma insomma. Ahimè, questa è la verità. Andiamo all'attualità. Salvini è pronto a fare il sorpasso su Berlusconi. Ci riuscirà? Ma ti confesso che è un problema che non mi toglie il piacere di dormire la notte, non turbi il mio sonno. Salvini è una meteora, si tratta di capire dove andrà a cadere, se andrà a cadere con una cifra di voti percentuale superiore a quella di Forza Italia o meno. Per ora sembra di sì, sarei molto cauto. Infatti da destra siamo noi, io ho dedicato un capitolo a Salvini e poi giustamente abbiamo fatto il sottotitolo La Rizzoli, il sottoscritto, contro storia da Scelba a Salvini, per indicare due poli delle vicende italiane molto lontane, non solo dal punto di vista cronologico. Il capitolo su Salvini è intitolato Il bomber leghista. Ah, e il bomber qui abbiamo leghista. Un problema, perché Berlusconi nelle sue continue riapparizioni, cosa ha detto? Salvini sarà il nostro bomber, farà gol, ma il capitano della squadra rimango io. Naturalmente. Quindi, a destra Giampaolo, assoluta incapacità, forse soltanto superata dall'incapacità della sinistra di andare d'accordo. E questo disegna tutto insieme, nel crack dei due blocchi, dei due fronti, il declino dell'Italia. Del resto voi a Radio 24 raccontate benissimo tutte le mattine. Grazie. Io sono vostro ascoltatore e mi ispirate sempre, penso, degli articoli interessanti. Grazie Giampaolo, auguri. Grazie, ciao. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. Enz ci scrive: brava Sara Tardelli, partite IVA devono farsi sentire, altrimenti nel silenzio ci distruggono. E questa è una linea che Sara Tardelli ha preso e che sviluppa con tenacia, perché la riguarda anche da vicino. E intanto oggi, subito dopo il giornale radio, torniamo a parlare, anzi continuiamo a parlare di Libia, di Gheddafi, un approfondimento per tentare di capire anche meglio ancora, raccontando la storia di Gheddafi, quello che succede oggi. Ascoltiamo intanto cosa diceva Romano Prodi subito dopo la morte di Gheddafi. Adesso Gheddafi non c'entra più, ma la Libia, il popolo libico e la Libia ci sono ancora. E il problema di questa relazione con l'Italia, di interessi non solo economici, ma anche di tanti interessi economici, si pone, e credo che siamo abbastanza spiazzati. Riprendere il ruolo che avevamo prima non sarà semplice dopo questa guerra, perché sono cambiati i rapporti di forza. Ecco, come dicevo prima, 9:53:33, stiamo in chiusura. Tra poco la storia di Gheddafi, realizzata da Amedeo Ricucci, curata e raccontata come sempre da Marina Milone. Ma prima della pubblicità, Saldi di Vasco Rossi. Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se è una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, vado per non sentire l'amarezza.